Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 17 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. La ricetta di oggi è mousse di tonno nel limone. Ingredienti per 4 persone: tonno sott'olio 150 g, 2 limoni, 1 acciuga sott'olio, mascarpone 30 g, erba cipollina un mazzetto, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaino di pistacchi, burro 40 g, sale e pepe. Preparazione: fate scottare i pistacchi nel tegamino, poi scolateli, asciugateli e pelateli. Lavate i limoni e asciugateli. Rigateli nel senso della lunghezza. Tagliate la calotta superiore e svuotateli usando un coltellino. Con un cucchiaino svuotate tutta la polpa e state attenti ad eliminare la pellicina, ma senza bucare la buccia. Mettete i limoni svuotati in frigorifero. Scolate il tonno e l'acciuga dall'olio, poi spezzettateli. Lavate l'erba cipollina, asciugatela e tritatela. Mettete nel frullatore il tonno e l'acciuga, poi il burro, il mascarpone, il succo di limone, l'erba cipollina e un pizzico di sale e pepe. Frullate fino ad ottenere una crema omogenea. Versate in una ciotola, unitevi i pistacchi e amalgamate bene. Togliete i limoni svuotati dal frigorifero e riempiteli con la mousse di tonno. Poneteli di nuovo in frigorifero e lasciateli almeno per un'ora. Servite tagliati a fette. Vini consigliati: Riesling del Trentino a 10 gradi, Verdicchio di Liesi a 10 gradi. Buon appetito! Questa era la ricetta numero 17 di A Tavola con Fabiola a Radio Big World. Io sono Fabiola e vi aspetto alla prossima ricetta.